una volta sì, uno no, uno ogni 15 giorni. Tonight Alive torna qui sulle frequenze di Radio Wombat e spero abbiate riconosciuto la sigla di stasera che introduce il gruppo di cui vi parlerò, vi racconterò le gesta. E questi ovviamente erano i Talking Heads con la loro famosissima Psycho Killer del 1977, uno dei loro pezzi più famosi sicuramente, o quello che proprio l'ha fatti conoscere all'inizio al grande pubblico. Infatti questo è un brano del 1977, come dicevo appunto. E facendo un passo indietro prima di questa Psycho Killer, ritornando proprio agli esordi della carriera da musicisti dei suoi componenti, dei componenti dei Talking Heads, all'inizio, dal 1971 al 1972, David Byrne era un membro del duo Bizzadi insieme a Mark Kenhoe, mentre aveva questo primo suo gruppo quando ancora frequentava la Rhode Island School of Design, appunto in quel biennio 70-71, e poi nel 1972 si sposterà al Maryland Institute of College of Art. E anche Chris Franz e Tina Weymouth erano studenti della Rhode Island School of Design, e infatti nel 1973 David Byrne, Chris Franz e Tina Weymouth formeranno il loro primo gruppo insieme, dal nome appunto, visto da dove venivano, dall'istituto d'arte, dalla scuola d'arte, si chiamarono i The Artistics, appunto in quel 1973. E Tina Weymouth era la ragazza di Chris Franz, e in quel tempo, al tempo degli Artistics, ancora non era entrata nella band, ma diciamo faceva un po' da roadie, come si suol dire, aiutando negli spostamenti il suo ragazzo e David Byrne. E dopo quel 1973 gli Artistics si sciolgono e decidono di muoversi verso la grande mela, verso New York, e divideranno insieme un loft appunto a New York City. E non riuscirono, quando si trasferirono proprio come band, non riuscirono a trovare un bassista che soddisfacesse le loro esigenze. Quindi Chris Franz chiese e incoraggiò Tina Weymouth a imparare il basso. E leggenda narra che gli insegnò ascoltando insieme tantissimi dischi dei Suzy 4, e da lì prese la sua ispirazione, diciamo, come bassista Tina Weymouth. E il primo concerto che fecero con il nuovo nome trovato alla band, ovvero Talking Heads, fu il 5 giugno del 1975 al leggendario CBGB's di New York, aprendo per i Ramones. E in una intervista postuma poi Tina Weymouth ricorderà come nacque il nome, da dove preso il nome Talking Heads, che appunto ci rivela è il nome tecnico dell'inquadratura a mezzo busto. Fondamentalmente è un termine che deriva dalle riprese televisive, e come si dice in inglese, la nostra ripresa a mezzo busto, appunto. E dopo un anno da quell'esordio, quindi nel 1976, ebbero la prima audizione per l'etichetta CBS, per cui registrarono una delle demo. CBS che però non li fece firmare poi, e allora si accasarono verso nella Sire Records, alla fine del 1976. Sire Records, che in quell'anno aveva scritturato anche i Ramones e li aveva messi appunto nei propri ranghi. E nel febbraio dell'anno successivo, dello storico 1977, pubblicarono appunto con la Sire Records il loro primo singolo, Love Building on Fire. E poco dopo, qualche mese dopo, nel marzo del 1977, aggiunsero un nuovo membro alla band. Infatti, Jerry Harrison prese posto dietro le tastiere e seconda chitarra e ovviamente anche cori. E Jerry Harrison arrivava dai Modern Lovers di Jonathan Richman e appunto poi si accasò dai Talking Heads. E tra l'altro si dice che proprio in questo momento definitivo di formazione, David Byrne chiese altre 3 volte il provino alla Weymouth al basso prima di accettarla definitivamente. Si vede che non era proprio convinto della Weymouth. Tra l'altro, Tina, che poi si rivelerà una grandissima bassista, almeno secondo me, quantomeno per un certo genere musicale di quegli anni 80. E quando cominciarono a suonare tra il CBeebies e al Max Kansas, i Talking Heads si distinsero subito dal branco punk con la loro immagine non rock e il loro sound anoressico. Byrne preferiva una chitarra sottile, pulita e metallica agli accordi iperdistorti predominanti nel punk. Volevo che sembrasse una piccola macchina ben oliata con tutti i particolari trasparenti, tutti i meccanismi visibili, spiega Byrne. Nulla di nascosto nelle tenebre di un sound imponente. Per qualche motivo mi sembrava più onesto e probabilmente anche più artistoide. Dal momento che la chitarra di Byrne era prevalentemente ritmica e non solista, il basso della Weymouth diventò la seconda voce melodica del gruppo dopo il canto. È una tentazione irresistibile suonare le parti soliste e le melodie, soprattutto perché le mie note corrispondono all'estensione della voce umana, confessò la Weymouth al Melody Maker nel 77. Tendo sempre a riempire i toni intermedi, perché se suonassi molto basso si aprirebbe una specie di Grand Canyon tra il mio basso e la chitarra di David. Nel primo periodo il sound scheletrico dei Talking Heads sembrava rientrare perfettamente nello stile power pop di gruppi new wave come gli XTC e le Cars. Il modello new wave consisteva in una chitarra ritmica tagliente, praticamente senza parti soliste, e tempi rapidi e ostici e spesso una tastiera. La voce tendeva a essere acuta, goffa e molto bianca. Le canzoni avevano spesso una struttura a singhiozzo e melodie spigolose e saltellanti più che dolci e sinuose. Psycho Killer, la sigla di stasera, è sicuramente fra i pezzi più amati dei primi concerti dei Talking Heads, in pratica brevettò l'irrequieta atmosfera di connessione e di ansia tipica della New Wave. E adesso da questi esordi dei Talking Heads ci andremo a sentire un nuovo pezzo, ovvero New Feeling, Talking Heads, Radio Wombat, Tonight Alive. I don't feel questo era uno dei pezzi degli esordi, un pezzo contenuto in quello che poi sarà l'album d'esordio dei Talking Heads, ovvero Talking Heads 77, appunto uscito nel 77, esattamente per la precisione il 16 settembre su Sire Records, come già detto. E su questo 77 tutti gli strumenti contribuivano tutti insieme alla struttura ritmica dell'album, dei vari pezzi. Tra l'altro c'era sicuramente da prendere nota, appunto ci sono tanti diversi pezzi molto belli secondo me, tipo l'inno enfatico di Tentative Decision, che è così propulso da un rullo di tamburi, oppure il vaudeville scanzonato di Don't Worry About The Government, che è accompagnato da un mandolino mediterraneo e da un vibrafono jazz, oppure il crooning rap jazz di Bukai Reed, che è intercalato dai minimalismi delle tastiere, oppure il funky soul di Who All Love Comes to Town, che è straniato da un metallofono caraibico, oppure il appena sentito il reggae minimalista di New Feeling, è affogato in una cadenza tribale, oppure la fanfara sudamericana di First Week Last Week, che incrocia lamenti messicani con un duetto di marimba e sassofono. E poi ovviamente arriviamo al pezzone, al singolo, a Psycho Killer, che vi ho fatto già sentire in apertura, una filastrocca psicotica con ritornello in francese e pulsazioni omicide di basso, rappresenta il punto di massima perfezione formale raggiunto da quest'arte certosina di incastri. Burn è un moderno chansonnier che si destreggia con classe in una giungla di citazioni, dal beat al soul, dalla psichedelia al rockabilly, che riesce a comprimere tutte le citazioni in una struttura di facile ascolto, cosa non assolutamente facile e scontata. E se esisteva un gruppo agli antipodi dei Talking Heads, erano sicuramente i Ramones, adolescenti cresciuti troppo in fretta in pelle nera e jeans strappati, il cui classicismo rock li portò a collaborare con il relitto Phil Spector, mentre i Talking Heads scelsero l'avveniristico Brian Eno come loro producer e ingegnere. Entrambe le formazioni, come già detto, firmarono per la Sire, la maggiore etichetta della New Wave americana, e nella tarda primavera del 1977 si imbarcarono nel doppio tour europeo peggio assortito della storia. Infatti i Ramones non credevano ai propri occhi: durante il viaggio i Talking Heads leggevano libri invece di fare casino, cosa che appunto molto strano per un gruppo, per dei gruppi considerati punk in tour, ecco. E durante il soggiorno a Londra gli Heads conobbero Brian Eno e intrecciarono subito un sodalizio fondato sull'ammirazione reciproca. E dal primo album, da questo 77, ci andremo a sentire un altro pezzo e ci andiamo ad ascoltare Artist Only, sempre su Tonight Alive a Radio Wombat. Cleaning again. E questa era Artist Only, che come erroneamente vi ho detto non appartiene al primo disco, a 77, ma in realtà è la canzone che ci introduce al prossimo album, a More Songs About Buildings and Food del 1978, sempre su Sire. E come già detto, questo è l'album in cui fa il suo esordio a collaborare insieme ai Talking Heads, come già detto, Brian Eno. E infatti, quando il teorico del progressive rock Brian Eno, attento studioso della nuova fauna newyorkese, strinse amicizia con il teorico della new wave David Byrne, il tema di fondo della musica dei Talking Heads, venne prepotentemente a galla, la fusione di ritmi etnici e moderna tecnologia. Da More Songs About Buildings and Food vengono definitivamente banditi gli assoli e viene definitivamente sancito il primato del ritmo. Tutti gli strumenti servono soltanto a far ritmo, o suonando un accordo o suonando in opposizione, tanto che alla fine il tempo più frequente è quello della marcia. La produzione è ancora più meticolosa e il tocco di Eno si traduce in un piglio più aggressivo. La produzione dei brani si avvale di arrangiamenti subdoli che spostano il baricentro dell'armonia, dando così sempre l'impressione di oscillare avanti e indietro fra due o più stili diversi. La appena ascoltata Artist Only era un ballabile psicotico con incalzanti sovratoni psichedelici, oppure il crescendo demenziale d'orgiastico di Stay Hungry. Lo stile vocale enfatico, brechtiano e farsesco di Byrne, chitarristico, nitido ma atonale e ritmico, paradossalmente cadenzato, del complesso, si sublima nella ballata country Big Country, esemplare la marziale danza di guerra di I Found a Job, che era un funky nervoso e divenuto una che diventa una tumultuosa disco music, oppure il funky camaleontico di With Our Love. E le canzoni di Talking Heads 77 erano state scritte prima dell'arrivo di Jerry Harrison, ma in Buildings and Food, con la sua tastiera a integrare il processo compositivo, la musica del gruppo divenne ancora più densa di trame. Eno, per giunta, amava creare colori sonori nuovi e strani usando effetti e trucchi da studio. Questi effetti cromatici si percepiscono in modo particolarmente intenso nel fragoroso riverbero della batteria all'inizio di Warning Sign, dal famoso sound subacqueo di Take Me to the River. Pubblicata come singolo, la cover di Al Green fruttò al gruppo il primo ingresso nella top 30 di Billboard, ponendosi inoltre come un sorprendente esempio di contatto interrazziale in un'epoca in cui la New Wave era al massimo del suo biancore. E adesso andiamoci, anzi no, con questo disco, con appunto More Songs About Buildings and Food, si chiude la prima fase dei Talking Heads, quella adolescenziale, per dire, quella dell'Ivy Funk applicato alla civiltà dei teenager, e questa è Found a Job. Talking Heads, Radio Wombat, Tonight Alive. Television, one of my picture. Don't get upset, it's not a major disaster. There's nothing wrong tonight, you say. I don't know what's the matter. Nothing's ever wrong, she said. So I don't know why you bother. We've heard this little scene, we've heard it many times. We're fighting over. e questa appunto era Found a Job. E con l'album successivo, con Fear of Music del 1979, i Talking Heads si tuffarono più a fondo nella funkadelia bianca, ma l'atmosfera è decisamente fine anni 70. Psichedelia come disorientamento da sovraccarico mediatico, non stupefatta serenità. Il titolo era ispirato a una vera, nonché piuttosto rara, fobia di cui Byrne era venuto a conoscenza, ma l'espressione paura della musica riassume indirettamente l'umore irrequieto di quel 1979, un anno di instabilità geopolitica, la crisi degli ostaggi in Iran, l'invasione sovietica dell'Afghanistan e le catastrofi evitate per un soffio come il meltdown nucleare a Three Mile Island, oppure la Rute Armée Francion o l'esercito della liberazione simbionese, la di Patty Hearst, ispirarono Life During Wartime, l'unico brano esplicitamente d'attualità inserito nell'album. Byrne va oltre le prevedibili emozioni del terrorista in incognito, sempre in movimento, i cambi di identità, i passaporti multipli, immaginando i rimpianti segreti del personaggio, mai un momento per divertirsi, innamorarsi e andare a giro per locali. Altrove i sintomi dell'inquietudine e del malessere sono più stravaganti. Air è il lamento di una persona talmente vulnerabile che il semplice contatto con l'atmosfera gli fa male. Some people don't know shit about the air. C'è gente che non sa un cazzo dell'aria. Geme. Mentre Animals presenta un brontolone alla Alf Garnett che farnetica acidamente su quanto la fauna sia irresponsabile e più in generale si prenda gioco di noi. Il subliminale fondo di disagio inserisce Fear of Music tra le altre pietre miliari del post-punk uscite in quel 1979 insieme a Unknown Pleasure dei Joy Division e a Metal Box dei Peel di John Lydon. E allora ascoltiamoci questo pezzo, secondo me veramente esagerato, da questo Fear of Music del 1979. Ice Imbra è un pezzo che poi è stato riusato tantissimo anche nelle discoteche, nelle discoteche più avanzate, diciamo, permettetemi il termine, di quella fine degli anni 70. Metteva Mancuso, era un pezzo che mettevano Mancuso, mettevano Larry Levan e tutti i grandi pionieri della dance music di quegli anni, e quindi mi è sembrato doveroso farvelo ascoltare nella sua versione, come si dice, extended mix, non nella versione dell'album ma nella sua versione estesa a 12 pollici a singolo, e questa è infatti di Ice Imbra che ci andremo ad ascoltare, è la extended version di questo capolavoro proveniente da Fear of Music dei Talking Heads del 1979, e questa è sempre Tonight Alive su Radio Wombat. Ice Imbra. caso di questo Fear of Music, i brani più avanzati in termini di struttura e metodologia erano sicuramente questa appena sentita, Isimbra e Drugs, rispettivamente la testa e la coda del disco. La prima combina percussioni africaneggianti con un propulsivo basso disco music e le sillabe senza senso cantate da Byrne, originariamente scritte e recitate da Hugo Ball come poesia sonora dadaista, e l'altra è Drugs, appunto, come dicevo, un ritmo lento e barcollante zeppo di allucinatoria immagine postume e tracce luminose. Evoca stati di alterazione per cogliere al volo l'atmosfera da attacco di panico che si desiderava. Byrne tentava di andare in iperventilazione, correvo in tondo finché non ero del tutto senza fiato, poi ansimavo, ok, sono pronto a cantare la prossima strofa. Gli aspetti più radicali di questa Drugs erano l'andatura scombussolata e la struttura disseminata di buchi, salti e spostamenti. Brian e io riducemmo la canzone ai suoi elementi essenziali e poi la ricostruimmo con materiale nuovo, risuonando alcune parti e sostituendo alcuni strumenti. Il risultato fu un mosaico di esecuzione dal vivo e collage sonoro quasi impossibile da replicare sul palco. Ma le nuove soluzioni si addentrano nella paranoia più tenebrosa con un sound ipnotico e stordente che culmina nel delirio di Memories Can Wait, con il suo riff cingolato di basso e un battito quasi voodoo, il recitato di Byrne rifatto come un incubo psicanalitico e tastiere da film dell'orrore. Oppure in Life During the Wartime, come già detto, che è un incalzante ritmo robotico con un cantato vibrante e quasi disperato che si infrange nel motto "There is no party, there is no disco", urlato istericamente dal coro come se si trattasse di una comitiva di pazzi. E nell'affresco incubo ipercinetico alla Suicide di Cities, fino a lambire quasi una versione anche del cabaret espressionista del teatro straniato e didascalico di Bertolt Brecht, oppure un neotribalismo pagano, eretico e blasfemo che ritualizzi l'alienazione del genere umano. E ascoltiamoci sempre da questo grande Fear of Music del 1979, Life During Work Times, ovviamente sempre dei Talking Heads, qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Nobody knows. E dopo Fear of Music arriviamo all'inizio degli anni 80, nel 1980, con quello che almeno a parere mio è il capolavoro dei Talking Heads e anche sicuramente del post-punk, uno dei capolavori dell'epopea post-punk, questo Remaining Light, un album pesantemente influenzato dall'afrobeat del leggendario Fela Kuti, che in quegli anni Brian Eno aveva introdotto al resto della band. E la conoscenza appunto di Fela Kuti e della sua musica estremamente particolare portarono la band appunto a esplorare ed a studiare i poliritmi africani di percussioni e una parte della musica araba e la mischiarono tutto insieme con il loro classico disco funk. E appunto queste combinazioni di queste musiche dalle varie parti del mondo faranno poi accrescere dentro a David Byrne l'interesse che poi sfocerà nella sua tarda carriera nella world music. E per via dei complessissimi arrangiamenti di quest'album, appunto per questo Remaining Light, i Talking Heads da quattro componenti passarono addirittura a nove per le esibizioni live di questo Remaining Light, e sicuramente tra i collaboratori di questo album vale la pena ricordare due pezzi da 90 come Adrian Belew dei King Crimson e Bernie Worrell, che era il tastierista dei Parliament. E la mente di Byrne brulicava di queste idee quando nella primavera del 1980 volò alle Bahamas per raggiungere gli altri Talking Heads ai Compass Studios e iniziare a lavorare a questo Remaining Light. Invece di partire dalle melodie, il gruppo decise di buttare giù tonnellate di materiale grezzo, riff, improvvisazioni, cadenze ritmiche, e lasciare che le canzoni emergessero da sole in seguito. I pezzi furono costruiti a partire dagli strati di percussioni e dagli spasmi di chitarra ritmica e le pennellate di sintetizzatore e i riff multipli di basso. C'erano Under the Punches, ad esempio in Born Under the Punches, c'erano almeno 5 tipi di bassi diversi, ciascuno che eseguiva una semplice cadenza di una o due note. I variopinti pittogrammi di tastiera balenavano tra il fogliame della batteria come uccelli tropicali. Quando fu il momento delle melodie vocali, Byrne dovette elaborare nuove forme di enunciazione perché la sua voce trovasse posto in quella brulicante e splendente foresta pluviale. Se da un lato aveva assimilato gli accenti ipnotici e i toni perentori dei predicatori radiofonici, dall'altro aveva imparato qualche trucco dal primo hip hop e persino azzardato un altezzoso rap in Cross-Eyed and Painless. E il tutto viene sottoposto a un processo di revisione elettronica che dispensa echi e riverberi a piene mani fino alle frequenze di incubo di Overload, tenebra lisergica, senza tempo, ormai in piena sperimentazione elettronica. Eretti questi imponenti muri di ritmo, i Talking Heads li perforarono nei modi più fantasiosi. I cicli vocali africani, il rumore chitarristico e le fanfare tastieristiche di The Great Curve, la tromba barrito di Hassel nel reggae tribale di Houses in Motion, il raga psichedelico di Listening Mind e i corali rituali della giungla ipnotica di Burn Under Punches. Sono brani certinosamente arrangiati, e di questo album andrebbe veramente fatta sentire ogni singola canzone, secondo me, come già detto, una delle pietre miliari di tutto quel calderone definito post-punk. E allora andiamoci a sentire questi due grandissimi pezzi presi appunto da Remaining Light, e ci andremo ad ascoltare uno dietro l'altro Houses in Motion e la mitologica Cross-Eyed and Painless. Ovviamente sono i Talking Heads a Radio Wombat su Tonight Alive. For a long time I felt without style and grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believed. He'll keep on digging for a thousand years. I'm walking along, I'm thinking about it in motion. I'm walking along, just barely enough to be living. Get out of the way, no time to begin. This isn't the time, so nothing was done. Not talking about, to say much, never get to talk. Tell us a little bit, but not too much. Right about then, it's where she gives up. She has closed her eyes, she has given up hope. I'm walking alone, I hate to be dreaming. Not talking about, not many at all. I'm turning around, no trouble at all. I'm keeping adesso andiamoci a sentire, come già detto, in doppietta Cross-Eyed and Painless. There was a line, there was a formula. E Remaining Light possiede lati aridi e umidi che insieme formano un approssimativo concept album. Gli inquietanti panorami del trittico Born, Cross-Eyed and Painless e The Great Curve sul primo lato, il vortice ipnotico e acquatico di Once in a Lifetime e gli sfavillanti paesaggi onirici di Seen and Not Seen e Listening Wind sul secondo. In Born e Cross-Eyed i personaggi di Burn sono ingabbiati nelle maglie meccaniche dell'occidente industriale, zampettando come criceti sulle ruote delle scadenze e del tempo e denaro. In Once in a Lifetime un uomo di periferia si domanda come mai gli sia stato concesso tanto, casa, auto, moglie, e non è sconvolto né tormentato, ha spiegato Burn, è solamente incredulo. E appunto questo inno gioioso di Once in a Lifetime con David Byrne che fa l'imbonitore mentre la melodia è cantata da un coro da pub, è sospinta da una fibrillazione angosciante di tastiere e da un ipnotico poliritmo africano e chiuso da un'epica distorsione di tastiere degna dei Suicide. Questo pezzo Once in a Lifetime poi diventerà veramente uno straclassico, oltre a essere un grandissimo successo anche solo a livello artistico per i Talking Heads, un brano estratto poi appunto come singolo dall'album che tantissimi DJ leggendari della disco della fine degli anni 70, dell'inizio degli anni 80 hanno usato tantissimo e in mille maniere diverse. L'avrete sicuramente già sentito, è un disco che veramente un singolo che ha fatto veramente la storia di questo inizio degli anni 80 e dei Talking Heads stessi. Questa è Once in a Lifetime dei Talking Heads. Behind the wheel of a large automobile. You may- Questa era Once in a Lifetime dei Talking Heads, e un capolavoro certo, ma Remain in Light scosse i Talking Heads fino alle fondamenta. Per realizzare il disco era stato necessario decostruire il gruppo, gettare nel vortice i ruoli assegnati. Tutti, per esempio, suonarono le tastiere e quasi tutti il basso. Ricreare una musica così stratificata dal vivo comportò l'allargamento dei Talking Heads a un ensemble di 9 elementi sul modello dei Funkadelic, il cui tastierista Bernie Worrell fu reclutato insieme ad altri 2 afroamericani, la corista Nona Hendrix e il secondo bassista Busta Jones. E prima ancora di suonare una nota, la commistione razziale e sessuale di questi Expanded Heads trasmetteva un silenzioso messaggio multiculturale. La loro presenza sul palco incarnava il senso di apertura totale ed elevazione collettiva precariamente colto da Remain in Light. E anche Brian Eno reclamava un riconoscimento adeguato al proprio ruolo e insistette finché i brani fossero attribuiti a Talking Heads e Brian Eno, ma il gruppo si rifiutò. Quando arrivò la copertina, scoprì con orrore che le canzoni erano attribuite a Byrne e Eno. La soluzione finale fu All Songs by David Byrne, Brian Eno and Talking Heads, un compromesso che scontentò tutti. La Weymouth, Franz e Harrison e poi persino Byrne cominciarono a sospettare che Eno, consciamente o no, volesse trasformare i Talking Heads nel suo gruppo, dei novelli Roxy Music, ma con Byrne molto più accondiscendente ai progetti di Eno di quanto lo fosse stato Brian Ferry. Il problema non sorse mentre facevano Remain, ma quando riflettemmo su cosa fare dopo, spiega Byrne. A quel punto gli altri si erano stufati di me, di Brian e delle nostre idee, e probabilmente io pensai: ok, non glielo imporrò più un'altra volta. E Tina Weymouth e Chris Franz nel frattempo vararono un nuovo progetto con un funk un po' più leggero, i Tom Tom Club, che registrarono un discreto successo soprattutto nel Regno Unito con il loro primo album, l'omonimo Tom Tom Club, forte di due pezzoni come Genius of Love e World the Rapping Hood, poi diventata anche molto famosa World the Rapping Hood. E poi pubblicarono successivamente, sempre su Sire, nel 1983 Close to the Bone, che non ebbe però il successo del primo album. E invece la mossa successiva di David Byrne fu la definitiva collaborazione con Brian Eno con uno degli album, anche questo, uno degli album, non stavo cercando di trovare altre parole, ma credo che non si possa che definire così un altro album fondamentale di quell'inizio degli anni Ottanta, attribuito appunto a Brian Eno, ai soli Brian Eno e David Byrne, quel capolavoro di elettronica e di tantissimi altri generi musicali interconnessi, che è quel My Life in a Bush of Ghost, uscito nel 1981 e che influenzerà tantissimo la musica a seguire. E appunto questo My Life in a Bush of Ghost è l'album che celebra un matrimonio artistico di primaria importanza. E le molteplici tendenze centrifughe in seno ai Talking Heads, le prove soliste di Byrne e i Tom Tom Club rallentarono la discografia del gruppo, che ristagna praticamente fino al 1983. E il nuovo disco Speaking in Tongue, sempre su Sire di quel appunto 1983, è il primo senza la guida di Brian Eno dietro al banco del mixer. E pur ritenendo l'energia del ballabile nel formalismo ispirato da un ritmo disco funk astratto dalle sue origini popolari, questo album Speaking in Tongue segna un ritorno del complesso allo strutturalismo minimale che aveva caratterizzato Fear of Music, propiziato dalle sintesi ritmiche di Franz e della Weymouth e dalle fratture chitarristiche di David Byrne. Byrne declama di nuovo sgolato sull'incalzante tribalismo di Burning Down the House, sconvolto dalle solite scansioni controtempo della chitarra e da sonorità acerbamente funky delle tastiere. Le diffusioni percussive e le tastiere saltellanti sono un sottotono nel soul dolce di This Must Be the Place. Questo disco segna un ritorno soprattutto al canto da parte dei Talking Heads, che regna di nuovo sovrano in questo Speaking in Tongue, e al romanticismo del quotidiano del primo disco della band. Questo This Must Be the Place, poi ricorderete, è pure diventato un film di discreto successo, direi, molto carino, a me è piaciuto. Un film del 2011 coscritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Sean Penn. E tra l'altro nel film, tra l'altro il primo film di Sorrentino in lingua inglese, in questo film Sean Penn interpreta il ruolo di Cheyenne, di una vecchia rockstar ormai sulla via del tramonto. E tra l'altro nel film, se l'avete visto e vi ricordate, Sean Penn Cheyenne incontra anche David Byrne stesso, che impersonifica appunto se stesso nel film, lo va a trovare perché appunto Cheyenne dichiara nel film che David Byrne è la sua ispirazione a livello artistico. E adesso da questo Speaking in Tongue del 1983 ci andremo a sentire il singolo Burning Down the House. Sono sempre i Talking Heads qui a Tonight Alive Radio Wombat. We'll be right back. questa era Burning Down the House. E dopo aver sciolto il rock in un vortice oceanico di etnofunkadelia, i Talking Heads scelsero la strada più imprevedibile e diventarono un gruppo pop di enorme successo, come ci ricorda Simon Reynolds nel suo libro Post-Punk, doverosa citazione per un autore e un libro da cui ho attinto a piene mani per la puntata di stasera, e non solo, da dare inoltre credito per questa puntata al sempre controllato Pierone Scaruffi, e qui almeno abbiamo finito i doverosi crediti per questa puntata di Tonight Alive. E arriviamo al 1985 con l'album Little Creatures, che tra l'altro è sicuramente il loro zenith commerciale, una raccolta di melodie ottimiste che narrano di fate New Wave, come in And She Was, con uno dei ritornelli più spensierati di sempre, oppure anche con il marziale gospel Cajun di Road to Nowhere, che è l'apoteosi metafisica della poetica di David Byrne. Contrassegnarono la felice crisi di infantilismo del complesso, un caso di regressione paragonabile a quello di Jonathan Richman, e la vulnerabilità di Byrne, che si era nascosta per anni dietro gli astrattismi formali di Brian Eno, ha finalmente il coraggio di presentarsi in pubblico. E Byrne in quegli anni, anzi nel 1986, scrive anche e dirige il film True Stories, e occasione per appunto la composizione della colonna sonora e di un album omonimo dei Talking Heads. Ma adesso andiamoci a sentire il singolo preso dall'album Little Creatures del 1985, appunto la già citata And She Was. In realtà all'inizio non la volevo mettere perché mi sembrava veramente uno sprofondamento crudelmente pop dopo tutto quello che ci siamo sentiti fino adesso e che hanno rappresentato a livello di avanguardia e di sperimentazione i Talking Heads. Mi sembrava una cosa un po' troppo commerciale, però dopo l'iniziale decisione di escluderla, nei giorni successivi a quando stavo appunto preparando la trasmissione, mi sono ritrovato più di una volta a canticchiare il ritornello, e allora ho detto no, allora va messo. È comunque un lato dei Talking Heads che per completezza è giusto far ascoltare. E appunto questa è And She Was, dall'album Little Creatures del 1985, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. See the lights up in the neighbor's house. Now she's starting to E questa appunto era And She Was. E mi sono accorto di essermi, come al solito, dimenticato di ricordarvi tutti i nostri contatti, partendo ovviamente dal sito della radio, che è sempre wombat.noblogs.org, la nostra mail, che è sempre posta wombat@insiberia.net, e i nostri canali social, che sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Doveroso ricordare i nostri indirizzi, gli indirizzi della radio, per mettervi in contatto con noi. E siamo appunto arrivati all'ultimo e all'ottavo e ultimo album dei Talking Heads, intitolato Naked, uscito nel marzo, il 15 marzo del 1988, e per questa poi, che poi diventerà ultima fatica, ma loro ancora non erano ben consci probabilmente, e il gruppo deciderà, per dare una smorzata, una sterzata al sound dei due precedenti lavori, Little Creatures e True Stories, i Talking Heads decideranno di andare a registrare l'album a Parigi, insieme a diversi musicisti internazionali. E tra l'altro, durante la registrazione di questo album, tutte non c'erano delle canzoni pronte, ma sono state registrate tutte improvvisazioni, una quarantina di improvvisazioni in questa session di Parigi. E tra l'altro tutte queste improvvisazioni erano tutte strumentali, non c'era la voce di David Byrne sopra. Questa era proprio stata una decisione presa appunto dalla band, dal produttore Steve Lillywhite, che poi ripartiranno da Parigi solo appunto con queste bozzetti, 40 improvvisazioni strumentali, che poi quando torneranno a New York, David Byrne inizierà a appunto creare i testi per questi canovacci musicali, proprio appunto per creare, dice anche lui, dichiara nelle interviste, per creare questa amalgama e far uscire fuori le parole spontaneamente, improvvisandole, basandosi completamente sulla musica e non preparando niente prima. Sicuramente un album che forse è degno di essere l'ultimo dei Talking Heads. Ci sono comunque dei brani da ricordare, come il tribalismo caraibico di Flowers, il funky soul scollacciato di Blind e il febbricitante mambo di Mr. Jones, un album che non avrà molto successo né di critica né di pubblico, e cosa che poi farà prendere la decisione di smantellare la band da lì a qualche anno dopo. Infatti ufficialmente la band si scioglierà nel 1991, ma le cronache dell'epoca ci raccontano che già dopo la fine delle registrazioni e della masterizzazione di questo ultimo album, di questo Naked, di fatto la band si era già sciolta. Comunque, come detto, c'è anche qualcosa da salvare in questo album, come l'iniziale Blind, che adesso ci andremo a sentire. Hey! Signs of love. time. Don't mention harmony. Say, what is it? What is it? What is it? Give a little shout if he raises his hand. Somebody shouts out. Say, what is it? What is it? What is it? Questa era Blind, l'ultimo pezzo che ci andremo ad ascoltare per stasera dei Talking Heads, perché siamo arrivati in fondo alla puntata anche stasera. E prima di lasciarvi al concerto che come sempre segue la puntata di Tonight Alive, che tra l'altro vi ricordo è possibile ascoltarlo solo in diretta adesso il sabato sera e nella replica del giovedì alle 23, e non è disponibile poi nel podcast della puntata che verrà messa puntualmente sul sito. E ho scelto veramente un concerto simbolo, infatti era il tour di Remaining Light, ovviamente quello della formazione a 9 con Bilou e Warrell e il resto dei Funkadelic. Concerto a Roma al Paraeur il 18 dicembre del 1981. 80 e non è proprio un concerto a caso, perché mi piace anche ricordare che c'è stato un momento alla fine degli anni 70 in cui i concerti delle rockstar internazionali erano diventati davvero merce rara in Italia a causa di alcuni gravi incidenti e contestazioni avvenute nel corso, ad esempio, dei concerti dei Led Zeppelin, a quello di Lou Reed e soprattutto al concerto di Santana, dove addirittura lanciarono le Molotov sul palco, e come vi potete ben immaginare, da allora gli artisti d'oltremanica e d'oltreoceano per alcuni anni hanno evitato lo stivale per le loro tournée promozionali. E infatti lo slogan dell'epoca era: la musica si sente, il biglietto non si paga, e spendere 1500 lire per assistere al concerto di Lou Reed era ritenuto veramente scandaloso. Quindi per un bel po' di tempo ci siamo dovuti accontentare di artisti italiani, non per questo meno contestati. Basti pensare al pubblico processo a cui venne sottoposto Francesco De Gregori al Palalido di Milano nel corso del suo celebre e drammatico concerto all'epoca del suo album Buffalo Bill. Piano piano però la situazione era andata normalizzandosi e gli apripista al Palaeur furono i Van der Graaf Generator, e poi a seguire nel settembre del 1979 arrivò al comunale di Firenze Patti Smith, e grazie alla quale tra gli artisti di punta della sua generazione si sparse la voce che finalmente si poteva tornare a suonare dal vivo in Italia. Quindi un concerto anche abbastanza simbolico, non solo per la carriera dei Talking Heads, ma anche proprio per il periodo storico proprio italiano di quegli anni, di quella fine del 1980. Concerto stupendo, un concerto bellissimo, con quasi tutti i loro successi fino a quel momento. E quindi a me adesso non mi resta che lasciarvi al vostro sabato sera, al concerto dei Talking Heads a Roma, e rinfrescarvi la memoria per ricordarvi il prossimo appuntamento con le dirette del Wombat, che sarà puntualissima come sempre. Le nostre amiche conduttrici Vladimiri e la Virgi, che domani pomeriggio ci alleteranno con La Fuga del Gatto, il programma, come amo sempre ripetere, sulla musica classica di Radio Wombat, che ci serve per riprendersi dalle fatiche del fine settimana. Allora adesso vi lascio davvero al vostro sabato sera e al vostro fine settimana. Un caldo abbraccio qui da Dalai Lama, e ci risentiamo sabato prossimo con gli appuntamenti di Radio Wombat. Stay Wombat, e buon sabato sera a tutti da Tonight Alive.